Allora, con le figure di vertice, no, con alcuni funzionari sì. Questo sì. Cioè, una volta partiti, la reazione che trovi nell'ufficio pubblico quando ti presenti, quindi il dirigente o il funzionario che ti prende il progetto o l'altro che ti dà una dritta o quello che ti viene a fare il sopralluogo. Lì c'è stata una dimensione di dialogo, legata poi alla percezione che la singola persona aveva dell'iniziativa, quindi se la condivideva ritenendo in qualche modo anche per lui fosse liberatorio rispetto a mesi vissuti passivamente a vedersi arrivare decisioni dall'alto, era di facile, è stato di facile dialogo e di mutuo appoggio, altrimenti c'era un po' di scetticismo. Però non so se neanche questa. Diciamo, è stato più facile dialogare con i tecnici dentro gli uffici che non con gli istituzionali. Però no, un canale privilegiato ancora non l'abbiamo individuato ed è il nostro grosso cruccio, perché una cosa è realizzare 7 manufatti abitativi provvisori, un'altra cosa è mettere mano a un piano di recupero per una dozzina di comparti edilizi, tali che poi sono il centro storico. Lì dovremo trovarlo per forza. Speriamo che è finita l'emergenza per decreto, quindi al 31 dicembre gli enti locali tornino un po' in forze anche in sé e si possa avviare un dialogo, ma come dire, con tutti con la testa un pochettino più calma. E anche la modestia dell'intervento che probabilmente non attira più di tanto l'attenzione del sindaco o dell'assessore, perché quando tu arrivi, sei la fabbrica, la Aventis Chimica, che fa un accordo col clero, dice ci metto 120 casette con tutti i miei operai dentro, lì l'istituzione risponde subito, no? Dice ah, fantastico, accordo di programma, variante al PRG. E in 15 giorni loro hanno avuto la soluzione urbanisticamente valida per realizzare quell'intervento per 120 nuclei familiari di operai. Un intervento più modesto che dice: ah, non facciamo morire un paesino di 45 abitanti, dice: c'ho altro a cui pensare. Questo è stato un pochettino l'approccio. Tu Matilde vuoi aggiungere qualcosa? No. Certo.